radio. Ecco, ecco. Cambio. Attenzione, canale 10, canale 10, compiato Antonio Razza! Sì, avanti. Avanti sul 10? Avanti sul canale 10? Attenzione, 10, Razza! Cambio. C'è qualcuno su 10? Ora, attenzione canale 10, cambio. Peggio, Pinotto. Oi, vabbè Antonello. Allora, come va? Cosa Antonello? Sei basso di radio? Sono basso di radio? No, aspetta, forse ero io che avevo il volume basso. Dimmi Antonello. Ho detto come va? Stavo lavorando sino adesso, là. Stavo facendo un lavoretto, ho piazzato di nuovo le... il rosmetro wattmetro accordatore, gli ho allungato il filo, gli ho messo le bananine, insomma ho fatto un po' il lavoro, ma ben fatto, là. Già va bene. Ah, meglio così, sono contento. Ma il Galaxy è risolto tutto, Antonio? Sì, il Galaxy è a posto, è perfetto. Era solo il trimmer bianco, quello che ci avevo pensato io, che era leggermente sporco, funzionava per la CVC e funziona benissimo adesso. Capito? Adesso è perfetto. Funziona bene. L'ho pensato a Carlo l'altro giorno, ho detto prova, l'ho detto a Carlo, casato, voglio sentire come esce. Me l'ha detto, però ha detto che non aveva tempo a attaccarlo perché doveva fare roba e non me l'ha potuto far sentire. Sì, vabbè, magari quando entra, non so se stasera no, stia lavorando oppure no. Capito? Così te lo fa sentire per come esce. Questo bene sta uscendo, Antonio. E a voglia. Questo è il Cobra. Quello che morsica. Esce bene, a voglia, ci mancherebbe. È perfetto come radio. Il microfono sto usando la Fayette, vabbè, modificato da me, dai, con capsula diversa, eccetera. Ma è normale il microfono. Ah, io sto usando l'MB più 4. Nel 2009 lo sto usando. Mi è piaciuto molto quel microfonino che si è comprato Marco Condor, amplificato, bellino, da palmo, ma veramente carino. Non l'ho visto io, il microfono, la verità. Non so, ma come dite, Marco, sì, anche perché qua a Sassari non c'è niente. Marco è M95, c'è qui, figurati. Quindi, vai a cercare una cosa, non c'è più niente qua, è diventato un motore tra Fusaro e GBC, conviene farsi riparare la roba fuori, fai prima. No, vabbè, diciamo la fusara o qualcosa la trovi ancora, se non la ordini. A me fusara mi tratta bene, dico la verità, non posso dire il contrario. E anche a me se per questo, ma l'altra volta sono andato a chiedere se c'erano le MB, cioè le MB, le M95 non c'avevo neanche il microfono amplificato, figurati. Ho detto cosa, c'ho le MB4, ho detto non faccio niente, io ho le microfono a tavolo, ne ho due. E quindi, vabbè, quando sarà a giugno io dirò bene che farò palmare amplificato uno DM1000, se lo provo ve lo prendo. Senti, quello che ha preso Marco va benissimo, l'ha messo nel 3009 e pompava forte. Quindi vedi quanto ha pagato Marco quel microfono? Mi pare 39 euro. Sì, non è molto, tanto più o meno il prezzo delle M95 mi sembra che ha pagato intorno ai 30 euro, mi pare. Cava, va bene, là. Adesso ho finito in questo momento di piazzare tutto, c'erano le luci che scendevano, adesso devo riparare una luce che praticamente si accende e si spegne, invece c'è qualche corto nell'interruttore. E magari si data appena e non fa contatto la lamella. Cava. Per il resto è tutto ok, Antonio. Sì, quello sì. Per il resto è tutto ok. Ho già incassato i soldi messi da parte, perché a maggio non c'erano niente, già lo sanno, addirittura adesso quando andiamo a prelevare dal bancomat più di 100 euro non ti danno in contanti, signor Draghi, hai capito? E non era così da prima, 100 euro in contanti gli altri da spendere con la carta. Ah no, io ritravo 140 in contanti, adesso invece 100, hai capito? Ma ci sono sempre furbacchioni che si ricambiano, ci sono quelli che vanno con la carta, gli danno qualche cosa in più e li ricambiano i soldi. Vabbè, io già per quello già vado con mia sorella, gli faccio una spesa e io mi ritiro i soldi contanti che mi interessano di più, capito? E così ho fatto 13 lo stesso, faccio fare la spesa a lei 200 euro e 200 mi faccio fare i contanti, così ce l'ho di riserva, agli altri li finisco il 26, il 25 e 26. Cavagava. Vabbè. So che ti stai vendendo il Galaxy. Sì, sto vendendo il Galaxy, però più che altro per avevo intenzione di prendermi il coso, il Temut, il 140 di Claudio, capito? Adesso vediamo un po' se a giugno ci pagano subito, fine maggio, inizio di giugno, se ho gli altri 150 euro almeno sono a posto e me lo prendo. Vabbè. Cava, se te lo conserva, se non trova qualche di un altro primo. Vabbè, pazienza, limite, già sempre 300 euro a parte c'ho. Nel caso trovo qualcosa su internet me la prendo e va a far cuffia, capito? Cava, va bene ancora. E infatti, ma già te lo lascerà là, sicuramente. Sì, vabbè, già c'ho il corso, al limite io ho i soldi contati nel forte, capito? Poi con la posta più sua rimanda a quello che c'è l'apparecchio e io mi faccio mandare l'apparecchio direttamente come l'altra volta. Ed è uguale a cosa, non cambia niente. Ma io l'avevo preso da Tecnocomunicazioni, 140 era perfetto, non c'aveva, e il coso, vabbè, il microfono sapeva che io sono pignolo, mi ha detto guarda è un po' consumato l'MC60, se vuoi te lo mando, se no ti faccio uno sconto, te lo prendi nuovo, e ho fatto così. Vabbè, d'accordo, avanti che vuole entrare. Prendo la Tecnocomunicazione, Antonè, che ti fa lo sconto. Ah, io ancora adesso però, a giugno, claro. Capito? Allora hanno bisogno di incubarti, venite a piano. piangere come qualcuno, me lo fai fare. Non è così di meno. Comunque era di qua, non me ne servono soldi a me, te l'ho già detto, è un favore che sto facendo, io le mie ce le ho, quindi. C'è qua la radio, non c'è problema, è questa che uso sempre. A volte 430, a volte 140, ma è questa qua. Vabbè, allora non c'è problema. Stavo solamente dicendo quello, che nel caso tu l'avessi già venduto. Già mi avete dato la ricerca, l'ho preso da televisione da Tecnocomunicazioni. Ci avete risposto, farò così. Comunque, è a giugno. Mi dirà già vi raggio, ma come sono a posto. Allora sono più tranquillo. Speriamo un po', perché ogni tanto gli gira la testa per i pagamenti. Oggi stanno pagando il reddito di cittadinanza di quelli che hanno fatto il rinnovo il mese scorso. Quindi in teoria dovrebbero andare il 27 di maggio a me, in teoria, poi è tutto da vedere, perché sono 5 giorni per l'elaborazione della domanda. Dopo 5 giorni in pratica arriva il via alle poste, capito? Se è tutto a posto, che non ci sono problemi, mi dovrebbe arrivare, come si chiama, il messaggio per andare a tirarmi di là. Vabbè, quando c'è i soldi mi chiami, c'è problema, ci sono qua io, sto facendo cosa? Stavo cambiando proprio una lampadina, non è radio. Vabbè, continuate, già se non ascolto. Ehi, allora, ciao Claudio, Moncore X. E adesso io sto aspettando se arrivano questi pezzi per il mio garage, se no ne smontiamo dal tuo, vale? Io sono il Marco, grazie, scusa. A tutti si è caduto la letto stamattina. E allora mi ha pigliato tutto intero il garage e tutto lo tiri per pezzi. No, il mio è in condizioni migliori, Ali, non ti offendere, però il mio c'ha tutto originale, viti, bulloni, tutto quanto, ho visto che il tuo c'ha viti cromate per le maniglie, tutto quanto, non sono gli originali, dai. No, si potrebbe fare così, me lo dai 50 euro, me lo tengo per pezzi e via. Vai, per 50 euro ti conviene andare da me, su internet c'è un po' di baracchini a partire da 30 euro, c'è anche un decametrico, c'è poi un lineare grande, non so cosa diavolo sia, si chiama Silvia la parola, basta che i telefoni e gli apparecchi pure lì. Oh, io sto scherzando, Ari. Chi vuole entrare? Va. Di chi era la risatina sadica? Adesso si guarda io. La parabola ti posso dare? C'è una parabola, se la vuoi, se ti serve. L'ho smontata da qua su perché i sostenuti tecnici e non hanno trovato piedi. Hanno messo la nuova e la vecchia che è stata 6 mesi prima. L'hanno tolta, capito? Allora poi me l'hanno lasciata a me, l'ho recuperata e funziona. L'unica cosa che ci devo piazzare è l'illuminatore, basta. Quello universale. Non mi interessa, io tanto televisore ne guardo molto poco, quello che guardo sono documentari e programmi tipo Tu sì che vale, queste cose qua li guardo, però film non ne sto più guardando lì, non c'ho più la volontà perché mi addormento. Ah, no, io devo staccare adesso i cavi che salgono dall'impianto centralizzato, sia la parabola che il cavo TV, perché io mi sono installato l'antenna per i fatti miei, capito? E che ogni volta c'era sempre la stessa tv'intera, ogni volta che c'era problemi nella centralina, sempre hanno pensato sempre a me e a Baracchino, e quindi mi sono girato le balle, ho preso, sono andato con 30 euro, mi sono comprato l'antenna nuova, me l'ho piazzata con la spina dei pesci, funziona benissimo. E in pratica dove c'erano i precavili faccio passare le 58, ne compro 60 metri e installo l'antenna di baracchina Giovanna fino a casa sua. capo. Ma Giovanna non sta più entrando. No, è andato perché dovrà mettere l'antenna, hai capito? L'unica cosa che posso fare è mettergliela sopra io. Tanto c'è la canna da pesca, gliela sistemo come si deve, gli metto, come ha detto Luca, ci metti una canna da pesca all'interno da 3 metri e poi diventa lo espanso, capito? E poi la piazza del palo è fatta, almeno Giovanna ci usa l'antenna sua, capito? Col barattino suo. O usa quando il 4000, o se no ce l'ha rimbato la scelta o il 2009. K. Bene, Veda, hai l'imbarazzo della scelta, Luci. Però io non incarto nessuno stasera, stavo facendo un lavoro, è riuscito lo smortello della che c'è sotto l'avvello. Si è strappata la cerniera, adesso stavo ricostruendo tutto. Vediamo un po' se tiene, faccio asciugare la colla e tutto. E poi vediamo un po' se tiene, se no ti pongo una tendina sulle mille luci. Io devo cambiarmi tutto il lavello, ma non lo faccio adesso. Lo farò verso luglio-agosto. Vado da coso e mi compro il lavello nuovo. E poi devo controllare da Bricco, mi riesco a trovare uno scaldabagno da 30 litri a gas. Ce lo metto fuori, tra 50, ce lo installo fuori, ci metto il gasmetto intorno, faccio fare il muletto in gasmetto. Almeno c'ho le... Dato a me mi serve solo per il gas per cucinare e per farmi la doccia, non mi serve per altro l'acqua, capite? A meno che non ci sia questo bonus dei pannelli solari, che ancora non l'hanno fatto. Se posso fare richiesta, mi piace i pannelli solari sopra e la piglia in culo, tanto sono gratis. Cosa? I pannelli solari? Eia. Altro che gratis, sono, io voglio 12.000 euro per pulire secondo Antonio Boni. Mi devo mettere 18 di pannelli solari, no? Ma c'è il bonus, c'è, capito? Quindi adesso vediamo un po'. In pratica mi viene gratis, sì, quanto sembra, tipo le facciate della casa, mi bonus c'è, grosso c'è, non c'è, devo mettere nulla di tasca io. Però questa sera i pannelli solari, io pensavo che erano proprio i pannelli che accumulavano l'energia e la espandevano, invece passa tramite le batterie, accumulano le batterie, poi le batterie lo danno, diciamo, negli elettrodomestici di casa, eccetera, capito? Sono queste batterie ad alta potenza che accumulano la corrente che prende il solare, là. Sono batterie a litro, per quanto sembra, durano 3 anni mi pare, a quanto hanno detto, poi non lo so, così hanno detto, così ti sto dicendo, ma vedimmo, se ne vale la pena, me li installo sopra, tanto c'è il tetto è mio, quindi me li installo, faccio installare i pannelli solari per la più che altro per la corrente elettrica, per lo scaldabagno, adesso vediamo, o lo faccio alimentare a gas o direttamente elettrico lo scaldabagno, perché il gas costa il doppio del coso, della corrente elettrica, quindi devo vedere un po' di farmi i conteggi. E beh, quella è l'energia innovativa adesso, quella con i pannelli solari è un'energia a basso costo proprio, cioè a basso costo si quando durano le batterie, dopo devi comprare le batterie che siano più buste. Dobbiamo utilizzarlo, diceva quella, al limite basta mettere un po' di soldi da parte ogni mese per le batterie. E poi quando sono da cambiare si cambiano. Capito? Comunque il pannello solare basta. Ho visto l'altro giorno su YouTube, basta prendere della carta spagnola, aspetta cos'era poi i CD, quelli viola, e in pratica ti costruivi un pannello solare, ti costruivi. Poi non ho capito come. Faccia un CD a mandare energia, non l'ho compreso, vabbè, intanto che vedo qualche cosa di nuovo che inventano, La 220 come candela della macchina, infatti ci metti magnetta in mezzo e accendi la lampadina, certo. Ale, ma sono cose che lascia il tempo che trovano, lo fai col cookie e dopo un paio di giorni è rotto, perché il vento, la pioggia, grandine, questo, quell'altro ti rovina tutto, ti rifaccia tutto, il cookie si strappa. Ah, beh, quello sì. Adesso basta ci mette un coso per il vento, quindi accedi a... da niente ce li hanno quelli a fare, due o tre di quelli sotto il palo della tana del barattino, questa cosa che gira K. Andiamo, vediamo un po' se vuole entrare qualcuno. Avanti sul canale 10 se c'è qualcuno che vuole entrare. Tutti a Reci di Bucus. Avanti, avanti, chi è? Cagliola non avrebbe. Cava, sparito. Io ho visto, aspetta, come vediamo se un CB ho visto da Nico, mi sono passato a Nico insieme a Giovanna, beve la birra, ho visto, eh? Avete regolante, non durava da lì, e lavorava nell'ambulanza, grasso bello, non mi viene in mente il nome adesso. Lavorava nell'ambulanza, grasso bello, che cacchio è? No, non lo so, non lo conosco, CB proprio non ne conosco, che non lo so. Era ucciso una volta. Ah, mi viene il nome, non me lo ricordo adesso. Se mi viene, ci ho saputo la lingua, se mi viene il nome, già te lo dico. Luciano mezza cartuccia. Bravo, Luciano mezza cartuccia. Gabba. E adesso mi sto pensando, vabbè, quello c'ha, adesso c'ha un circolo suo, dove cucina, ci sono pietanze, eccetera. Me la metto ieri, infatti. Me la metto e metto, ma dove veniva a me, passi con Giovanna, così bevi qualcosa. Vabbè, se capita, ce la beviamo, io adesso. Sempre via università ce l'ha? Boh, non lo so se ce l'ha via università, non glielo ho chiesto la verità. Sì, si chiama Mangiamo da Nonna, quello di circo, Mangiamo da Nonna. Avevano sparato a Luciano con la pistola, lo sapete? No, cazzo, già è bello grosso a mancarlo, visto che già è, cazzo, bello piazzato, sta ingrassando. E lui aveva un circolo in via cosa, in via Turritana, pare, sì. E praticamente questo qui voleva entrare a tutti i costi, voleva fare una rapina, lui ha cercato di chiudergli la porta e l'ha sparato al braccio. Ah, quindi voleva rapinarlo. Beh, quella lì a centro storico è meglio come si passa di notte uno. Perché Piazza Donato è diventato zona, capito, off limit, non ci puoi manco entrare, che sennò ti trovi negri, cazzo, ti rapinano di ciò che c'hai. Prima era una via tranquilla, adesso di notte è diventato un casino, ci sono sempre come si chiama, i carabinieri che passano ogni 4 ore, 20 minuti, fanno la stola per beccare i geriani che spacciano. Ma l'hanno arrestato, l'hanno preso dopo pochi minuti, Luciano l'hanno portato all'ospedale a operarlo e a lui l'ha beccato il padre della ragazza di Luciano, che è poliziotto, l'ha arrestato lui. Avanti, avanti, avanti, carissima, avanti, buonasera. Attention my friend, Italy from Sardinia. Brecco, poi non ho capito l'ultima frase che ha detto. Avanti, chi è che vuole entrare? Ascolti Italia, cambio. Brecco, ci sei? Deve essere qualche dura che magari con qualche cibibu. Sì, magari qualcuna col camper, capito? Perché il segnale era stabile, non era la tua maritopagazione. Sì, ma già c'è la propagazione, sì, ma non era italiana perché si sentiva che non era italiana. Ma la senti la propagazione che c'è? Ho capito già. Ma la senti che c'è propagazione a gogo? Sì, ma se la sento la propagazione io qua. Santiago 1? No, no, qua è forte. Qua si sente forte, forse viene dal mare. Ehi, c'ho anche l'altra antenna, c'ho anche la canna pesca piazzata qui. E non è con le 4.000 quella. Quelle antenne non prendono QRM, sono belle per quello, QRM 0. Già lo so, anzi, QRM 0. La verità cosa tu non è che QRM già le pigliavo. Cioè, ecco, 3, 3.5 di QRM lo ho io. La Mantova le pigliava di meno, la verità sì. No, la Mantova ne prende di più, Vabbè, non è che sia molto alto da me, è 2, 3 al massimo, ma l'altra è proprio 0, capo, non pigliavo nulla di quel REM. Ed era anche come stazionario 1 e 1 in tutti i canali. E te c'è un'isola di Canaria, ci ascolti Italia, Nord Sardegna, che chiama? Ah, è dove si chiama Anastasia, dell'isola dei Canari. Attenta mia hermana, se va a scusciare l'operatore Delta Romeo della città di Sassari che ti chiama. Attenta isola delle Canarie, se ascolti l'Italia, cambio. O forse lo sentiamo solo lui, loro non ci sentono. Guarda che questa non è le Canarie, c'era una delle Canarie, te lo ricordi che parlavo più di con Antonio Falchetto, cazzo, chissà che fine ha fatto quella lì. Sembrava Falcone 2, dalla mattina alle 9 sì, alle 10 e mezzo di sera parlava. E non la banale YouTube. Era una cosa allucinante, era quella. Tutti i giorni sul 16 era. Già me lo ricordo. E invece sul canale 4, quando c'è la propagazione dalla parte dell'est, c'è un ripetitore pappagallo, ti metti in FM, tu fai 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, e poi ti senti la voce tua. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, il bip finale c'è. E va, non ho mai constatato questa cosa. E ho sentito io 3 giorni fa, cosa torna con, figurati. Fatto la prova e già arrivavo bene di là, perfetto era, mi sono sentito la mia voce che era splendida. Cavagare, vabbè dai, sono cose nuove per me perché non l'ho mai sentito là. Come se ci fosse l'eco da. Più o meno, cioè tu parli e ti senti la voce tua dopo un secondo, capito? Oh, che strano. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, Italia, fa chiamata e si sintonizza in ascolto, brecco, brecco. Attenzione, canale 10, si ascoltate l'isola sarda, cambio. Ecco, dite che è sparita, che... Oh, Alessia, cosa ti dico? Adesso vado a portarci in cane, dai. Ci sentiamo, visto che non è entrato nessuno, stavo aspettando, detto almeno sino alle 9. E poi, se non entra nessuno, vado, dai, così almeno, se piove non mi frega, perché ha messo pioggia, ma oggi non ha piovuto per nulla, non lo farà stanotte. Anche lì non va a piovere, non ha piovuto niente, ma so che c'era leggermente di... un po' di fresco verso le 6:30, 7, allora con Giampiero immediatamente siamo saliti su a casa, l'ho portato a fargli fare la passeggiata di Alba, abbiamo avuto un bagno di birra e poi siamo saliti su a fare, stavo già, gli ho scattato, in corso sono sceso, prima si poteva stare al caldo, gli ho detto aiuto Giampiero, montiamo le tende e saliamo su a casa che qua c'è già freddo, se non rimango con il dolore, e infatti così ho fatto. Voglio bene, voglio bene, voglio bene, voglio bene. Cos'è, Tassi? Boh, ha detto che ti vuole bene. Dimmi che ami. Deo de Chiero. Me batte il corazon. Fuerte, fuerte. Certo, mi sembra cosa, mi sembra questa. Come si chiama quella che sta su internet? Che è convinta di essere... fa il culo, ciao. nome. Oggi si ha, ha fatto vedere il culo, mi piace così o così? E invece si scrive, ascolta, poi di quella nell'asino che è meglio. Boh, non c'è più religione, no, Antone. Carlo Taurifice, mi guarda la foto che si è messa, Carlo Taurifice. Cosa guardi? TikTok? No, su Facebook normale ha messo il culo sopra il letto, prima ha fatto una foto, dice mi piace più questo o quella o l'altra, e credevo per scrivere, è meglio che ti metti in posa con qualche asino, che è meglio. Oh yeah. Sono molto si gridini un bel vabbè, allora ti lascio che se no non vado più, ci sentiamo, buona serata e tante cose belle, là. Sì, d'accordo, ciao, ci sentiamo, buona passeggiata con cane. Grazie, grazie, ci sentiamo, tu non lo porti. Stamattina l'ho portato, tutta la mattina, quando ho fatto colazione siamo la Sonia, scesa giù, poi sono sceso io, ho portato il cane, l'ho fatto fare la pipì e poi sono risalito nuovo a casa. E anch'io l'ho portato stamattina, l'ho portato anche stasera, là. Poveraccio. Vabbè, là. Ci sentiamo, vai. Ciao, ciao. Ehi, sono risalito subito su perché doveva venire uno a piazzare la tenda, invece si è perso lui la tenda. Adesso ci viene domani. Se no, tanto già lo trovo sempre a Balli. Se a un certo punto faccio il buco io, ma la piazzo io la tenda, via in Napoli. Ciao, ciao, ci sentiamo. Sì, ciao, ciao. Mi educa la memoria, mi sa che mi sono male. E me messo male. Adesso non mi ricordo, stavo facendo una cosa, ma non tu. Aspetta, mi sta chiamando Anna. Che la fai? Oh, chissà. Andiamo, andiamo, allora, vediamo un po'. Una volta a 7 caratteri. Perfetto. E si vede bella mossa. Qui sono stato in Antonio che vado a casa, collegato al computer. Qui dello sistema. Ah beh, se gli hai separato il computer Antonio è meglio così, io quello che è il mio ho dato a cosa Alessia, io ho dato, ho detto a Simona Maglio, ha proprio detto, io ci ho buttato lì a casa, non lo uso più, ho già detto, lo uso a fare quel capo il computer, c'ho il telefonino, non me ne faccio niente. Allora c'è la Alessia, così si scarica le fotografie che ha fatto e poi le inviare agli amici suoi. Casino, adesso me lo voglio cambiare, mi voglio prendere quello con il processore i7. Più veloce in pratica. Più veloce. Velocissimo. Ho comprato il carretto Antonio, lui, mi ha regolato, domani glielo do. L'ho comprato io, glielo regalo io. Eia, ti volevo dire una cosa, ma lo sa da bagno, boh, se devi unire, non mi ricordo. Ah, stavo dicendo, sentivo là, ero nel soggiorno, no, sentivo questo, sai, solito il classico tic tic tic, quando c'è qualcosa che sta perdendo, tipo sta da bagno, ma me lo immaginato, mi sono bizzato, ando in bagno, non vedo nulla, non vedevo niente, nulla. Cosa è successo? È entrato il figlio a farsi il bagno, forse con questa impressione, e là se l'ho sentito un'altra volta, io pensavo che questo rumore provenisse da fuori, invece entra in bagno, e si fa bagno bucato, diciamo da Maria, Maria passa così così. Allora niente, l'abbiamo smontato, però c'era un pezzo di tubo della macchina, non un tubo dell'acqua, che arrivava giusto giusto per scaricarne l'acqua, meno male, se no mi ha un tubo traforà, abbiamo perso un bel di tempo, adesso altro da applico, ma ci ho messo a piazzarlo, ma ci ho messo 20 minuti neanche. Quello è importante, io ce l'ho conservato, nel caso dovesse succedere, capito? C'ho il sifone direttamente sotto, lo scarico, invece quello che aveva carbonati era sopra la vasca da bagno, come mi si buca l'acqua scendeva la vasca da bagno, meno male non è scesa ruggine, scendeva solo acqua, casino, di fare da bagni, non so dove andare più nulla, mi ricordo quello di mamma, 15 anni durando, grazie. Ehi, ma guarda, che noi ce l'abbiamo a casa della mamma, la vasca da bagno sotto sopra la vasca, ce l'abbiamo sopra la vasca, che è pericoloso, meglio non ci sia lì, se ci stacca un poco, infatti cosa ho fatto? Allora, ci sono le staffe che avevo messo tantissimi anni fa, fatte dal ferro, no, incementate, però per sicurezza, quelle si riuniscono col tempo, allora cosa ho fatto? Ho preso e aggiunto due tasselli, li ho messi a fianco, e così sono più sicuro, però è sempre una cosa che vai sotto all'ungabu, cazzo ci si cerca da ammazza. Sì, anche mamma ci accorgeva con le tafferie, le ho messo due tasselli anch'io, ma ci sono i tasselli per lo scaldabagno, quelli a gancio robusti, metti due bei tasselli di quelli robusti, capito, le avviti e tiene, ti tiene un bel, no, non si usa più adesso sopra la vasca, prima li piazzavano sopra la vasca, adesso invece no, adesso li piazzano in uscita, capito. Chi c'è? Di motorpompa. Ehi, sono qua. Gli umidati orizzontali io gli scaldabagno lavoravo con Usai. Buongiorno. Emanuele è andato in questo appartamento, ha bucato il muro e ci sito dall'altra parte, ci sito. Ha chiamato Usai, dice ho fatto danno. Ah, io ho detto, Emanuele, arrangiati, gli ho detto. Vai, gli sistemi tutto, gli metti i ganci nuovi, gli ho detto, e tu non vai, perché io sono venuto solo aiutarti, basta. E se l'ha pagato, ci ha pagato un muratore per fargli il buco dall'altra parte. Oh, Pompo, guarda che domani ci mettono a tua, a mezzogiorno e mezzo al dentista. Ci abbiamo finito bene, ci troviamo. Già, sono a casa, non ti preoccupare, fammi lo scudo quando sei sotto e scendo. Ah, ok, va bene, avanti. Sì, nel frattempo ho cambiato radio, differenza c'è, meno forte questa. Più bella questa, guarda, troppo forte, troppo amplificata era. Troppo forte, lo volevo dire poco fa, è un bel sparata, questa va bene. Quello lì è il 430, l'ho abbassato, questo è il 140. Questa viaggia di lusso, alla grande. Ma questo qua le stai vendendo? Io, questo è quello in vendita, lo sto usando sempre io. Dovesse fare difetti, ma fino adesso difetti non ne ha fatto. Ma è col microfono normale? Sì, allora, microfono normale, cavo di alimentazione su originale, a quattro fasce, il manuale di istruzioni. Quanti 100 euro? 300. 3? Sì, vale tutti, è nuova, in buonissime condizioni. Infatti l'ho collegata per usarla perché era sempre ferma. Questa è quella che gli ho cambiato la batteria a litio, era quella di Coso, capito? Era la mia, quindi sono sicuro che funziona perfettamente. Ma sai cosa, 640 sì, è bello, c'è bene. Quello non agisce lo squelch, io sono tutto squelch e sto male, no, non mi sentivo questo, mi dà fastidio, claro. Lo so. Non so, non c'ha in FM, non agisce purtroppo, lo squelch 430 e 440 sì, 80 e 140 no, ho fatto una stronzata, però compenso. È una buona radio, una radio che soprattutto non crea problemi, che non crea problemi, io con tutta l'esperienza che ho su questa radio, io mi sono tenuto il 430 e il 140, capito? Perché non creano problemi, non creano problemi, sia 80 l'avevo venduto, se non mi avete un tanto sia 80, ma ne avevo 4, ma vanno a giudicare a 3, quindi già va bene. Gappa. Avanti Antonio. Io roba, mi do bisogno ancora. La scorcina M, la verità io non l'ho mai usata. In FM lo usavo con 80 lo squelch perché agisce. Era l'unica cosa che funzionava. Vabbè, l'unico problema che avevo era qua, già te lo dico di qua, restare che vedi che era 15.000 la cosa allucinante. Solo quello, però provato via il zitto era un demonio. Parlavo tranquillamente con Cagliari. Da lì, c'avevo la gran due piazzata, poi hanno preso dopo una settimana, hanno visto il capo a pendolo e ne ha esegato con la forbice, cioè, gli ho detto via il culo, buio e il capo. Poi hanno fatto il tetto nuovo e i tali hanno fatto tutto. Vabbè, tu carri che l'ho regolata a antenna, 430, ma meglio così. Forte, qua, forte. Più forte di quella là, vabbè, questa spinge di più. Ce l'ho a 2, ce l'avevo a 3 prima, ce l'ho messo a 2, va bene? Sì, vabbè, poi c'è anche la fibrica tua che lo fa pompare. E quello è, capito. Ma no, state più modulando qua, a 145. Sì, beh, quello è un monitor, magari si spostano. Io oggi non sono entrato per niente, però c'era questa volta sera, c'era Walter, Marco, Gianfranco, Roberto Valghero, c'è il traffico, però è sempre un monitor, capito, non è che stanno sempre lì, si spostano e lo tengono come frequenza monitor, come facciamo noi qua, più o meno. Ho capito, sì. No, io ho visto una... per ascoltare, mica modulare. Non sai, questo portatile, molte volte me lo faccio acceso, me lo dimentico e poi devo caricare la batteria, un casino. È giusto per ascoltarvi, ma non so cosa fare, molte volte, ma sto facendo roba, vi ascolto. È una radio carina, però, ma non mi fido, me la fotti nulla. Vabbè, giusto per ascoltare già va bene, è importante avere qualcosa da poter ascoltare. Andare, avanti Antonio. Sì, io quando ascolto facendo l'altro, faccio tutto in gara e i PDP ci sono, e in PMR altrettanto. Come sapete, è diventato un casino, è diventato adesso. C'è l'ospedale adesso a 446081. Invece questo è il mio, il 140, quello mio. Va bene lo stesso, come radio. Tutti bene qua, tutti bene. L'altro è più spinto però, va bene questo qua, perfetto. E l'altro, sì, quello che è in vendita è un po' più spinto. Vabbè, questo è... già va bene così. Lo posso tirarlo, non è che... però non tocco niente, già va bene così, dai. Quell'altro l'avevo fatto per me, mi ricordo, andava molto bene con la razza. 5-6 anni fa l'avevo venduta e mi è rientrata. Ed è sempre in buone condizioni, maledizione, nonostante è stata un po' ferma, però è in buonissime condizioni. Va bene. Avanti, Antonio. Quelli sono come cadavrati tedeschi, capito, che hanno andato all'Ucraina di 20 anni fa e vanno sempre bene. Gli Sherman. E i tre sono peggio, certo. Ogni vergogna, certo. Gli hanno dato la mitragliatrice e quindi la guerra mondiale. Con la sonda, te lo ricordi, tra? Ecco, se mi ricordo. Ascolta, quanti anni l'hai tenuto, sia tanta che ti ho dato io? Tra. almeno... penso una quindicina d'anni, giusti, perché dunque l'ho comprato quando mi sono trasferito da Berizzito, l'avevo comprato, e poi l'ho usato qua, è sempre stato qua, poi avevo messo del GBP 4 toni, eccetera, eccetera, una quindicina d'anni saranno. Tu immaginate che gli altri ricordi che io quando abitavo in Venezia usavo il C80 e mandavo la con trasmissore FM, mandavo le telefonate che ricevevo intorno ai 39 46 mega, eccetera eccetera, gli altri ricordi, quindi figura di tu, era con i Venezia io. Sì, è andata sempre bene con la radio. Avete messo un petito, l'avevo venduta anche per i fastidi che poi mi ha dato per fargli togliere quei bip, mi ha rispettato poco di cosa, quello hai rovinato un macchino aeromotoriale, cominciato a dirmi eccetera eccetera, ha aggiunto solo l'apparecchio lo vuoi per così, se no me lo tu indietro, ti restituisco i soldi e basta, detto, non ti stai girando intorno, io ho detto mica lo puoi pagare di meno e basta. Ha preso l'altro amico suo, l'aveva fatto togliere il GBP subito, c'è lo schema, c'è tutto per togliere il GBP, non è che abbia fatto questo grande casino per agganciarlo. Ha avuto il frontalino, l'ho agganciato direttamente il fili dove c'è il frontalino, basta, non avevo fatto altro, mi sono dato due fili e un punticello dove c'è l'audio, basta, non avevo fatto altro, e poi ci avevo infilato sotto, se devo ricordare, però è sempre andato bene quel baracchino. Sempre perfetto, lo aprivo ogni anno per pulirlo, usavo il pennellino e non mi ha dato mai problemi, né la ventola né niente. No, non mi danno problemi con le radio, vanno alla grande, se tu le lasci come sono, che non le tocchi, la regolazione sua lasci, Mickey Game, i watt li tieni bassi, ad esempio questa con 20 watt modula 50-70 watt, va benissimo, Antone, non c'è bisogno di tirare le manette, capito? In FM è regolata a 50 watt, sono più che sufficienti, banda laterale fa molto di più, però ti posso garantire che vanno bene, cosa stai a modificare e fare, poi ripeto, ognuno ha la roba sua, ne fa quello che vuole, per carità. Avanti, Lucaria. Ehi, Javi, sto aspettando Antonio, che devo entrare nel suo computer, con quel team, TeamViewer. Domani me devo vedere così dopo questo carretto, mi faccio vedere l'altro, vedere se riesco a recuperarlo. Piano piano, lo accorcio, vediamo dove è interrotto. L'ho promesso e l'ho preso. Ho già provato qua, perfetto, nuovo, fatto nuovo, comprato nuovo, con la maschera. E glielo diamo, così la bruciata state più attento invece di comprare a cagati. Brecco! Avanti, Robby! Buonasera a tutti, ciao Antonello, ciao Claudio, ciao Luca e poi non so chi ci sia. Ciao Roberto, ben sentito e ben entrato, grazie a te. avanti Luca. Ciao Roberto, saluti. Ciao Roberto, buonasera, ben ascoltato. Tra un po' andiamo a toppare. Allora, già finita? Sì, ma non trovavo la partita. E che partita c'è? Real Madrid, Manchester City. No, a che verso? Adesso è iniziato. Sì, alle 9, che verso? 7 minuti stanno giocando. La Svizzera rimane. Creo che ho meno la partita ieri. Cazzo, ma forti i giocatori sono. Sono forti veramente. Cazzo, Liverpool dice che fa mettere la Champions. Mi non fa vedere il braccio, lui ci ha incazzato niente, cazzo. Lì ha da rubare al portiere dell'Inter, l'avevo fuggirato, cazzo. A quale? La gola con Bologna? Allora, come si fa? Come si fa? Avete perso il campionato per colpa di quel portiere, cazzo. Vabbè, pazienza, cosa ti dico? Pazienza. Ma cioè ti dico, non deve sgarrare il Milan, se sgarra poco a poco è fottita. Lo so, ma sai, quei due punti erano importanti. A 4 giornate alla fine si avanti i 2 punti, cerchi di curarti, adesso il Milan cerca di fare le partite, è normale, capito? Vabbè che va a vedere Ugagliari. E speriamo che insomma riuscita a vincere. E poi chi c'è? Non lo so, non ricordo. Comunque è la favorita, io preferisco più l'Inter che il Milan comunque. Roberto non è d'accordo, però a me piace più l'Inter giocare del Milan, è una squadra più compatta. Guarda, poi da me che tipo se vincesse il coso mi ieri, vabbè. Hanno visto 2-0, ha detto, ma fatto, chi sciuga, siamo 2-1, 2-2, 3-2, ha detto, Il primo tempo quelli hanno dato tutto, poi nel secondo tempo ha fatto quel cambio allenatore, da bui non ce la facevano più, li hanno uccisi quelli là. Uccisi giuro, hai massacrati che porca idea. Avanti Antonio. Io sono andato da Nico, stavo guardando la partita, sono andato verso le 6:30, 7:00 se mi gioco qua, figurati. E lo sai Nico che è pazzo per me, quando c'è la squadra sua, mamma, ma non bisogna neanche parlarci con lui, lui che ci manda a fare un culo, ti stimpate. Anche Luca. No, Nico, quando vedi che c'è, che sta guardando la squadra sua del cuore, se si guarda la partita, è meglio non chiedere di nulla. Ah, Luca è abbastanza sportivo, è chiaro, ognuno difende la sua squadra, però si può parlare di calcio, capito? Io ti ripeto, non sono antiterista, lui è anti-juventino, ma non mi interessa, ognuno ha le sue opinioni, però io guardo l'Inter perché mi piace come gioca, mi piacciono i giocatori, è una grandissima società. Ed è malato, ma malato ha bisogno di più, ma come si fa, ragazzi? Quello, se parli male dell'Inter ti picchia, ragazzi. Diamo questo fino alla volta. Ma cosa cazzo capisci tu? Stai zitto, ho fatto un cazzo di no, a quel tipo mi ha quello bassottino che faceva il postino prima. Ah, quello proprio Antonio dice quando lo vedo di tanto. Che ma lui si è sbito, cosa? No, sì, non si fa così, anche con me ha avuto qualche battibella, tanto mandava a cagare. Con tutto rispetto, perché per carità non è sempre sano, però per il calcio è proprio malato di debito, non si può diventare scemi così, dai, finiamo. Vabbè, quanti di più, sembra che non danno imbusciate. Vai Lugaria. Scusate un attimo, devo aiutare Antonio un attimo qua. Riprendete voi, riprendi Robè. Il cavo collegato là, Ecla. Sì, collegato, provate, l'ho messo dentro la busta. E domani glielo do Antonio, domani mattina, tanto devo uscire. Questo è il 50, è quello tuo. E quello tuo e non è quello mio. Io te lo giudicherò. Esce bene. Esce molto bene. Questo è il 140, quello che è in vendita, quello che vale di più. Sto tenendo sempre acceso, in funzione, ogni tanto comodo. Dovesse fare difetti, ma difetti non fa, nuova nuova, già l'hai vista. No, una meraviglia, esce perfettamente, poi nuova nuova con la radio, poche ne trovi così nuove. Non so, infatti sono rimasto contentissimo, perché ha tenuto veramente tutto in ordine, anche le 29:20, ha tenuto venuto veramente tutto in ordine, 910H, tutto imballato, tutto con le scatole, veramente. Una persona molto, molto attenta a queste cose. E cosa c'è poi? Ti metti a graffiare il CIS, a fare, perde il suo valore, capito? Invece questo è luccio luccio, bello, bello ordinato. Sì, è pulito poi, non è pinghioso, perché certe volte le radio le prendi, sono tutte piene di grasso, di unto, di cose. No, questa è l'ecopriva, lo conosco io, ma se questa l'ecopriva delle radio, infatti non gli ho fatto niente, gli ho passato la freccetta, ma è un frontalino, è abbastanza in ordine, pulito, ma no, va bene. Beh signori, dai, visto che c'ho il microfono, vado a pappare che io ancora non ho mangiato. E poi mi guardo uno straccio di partita. Ciao Antonello, ciao Luca, salutatelo quando rientra, ciao Roberto, ci aggiorniamo domani, tanto sono a Sassa, riprendi Antonello. E io ricordo, ciao Luca, ci sentiamo un po' quelli di buon tutto alle prossime. Avanti Roberto. Ciao Luca, dimmi Luca, ciao Claudia, ci sentiamo, già lo sai. Da questo già siamo vicini, dai. Ok, buona cena e buon tutto, saluto a tutti. Chi è rimasto? Luca, ci sei, sei rientrato? Sì, sono qua. Ma sì, cosa stai uscendo Roberto? Come? Con cosa stai uscendo? Con l'MC50. Sif, San Radio. Non ti piace? Per carità. Manca a paragone alla 60. Qualcuno ha detto che è meglio. Ma cosa cazzo è meglio, Roberto? Vabbè, pensavo che facevano un baracchino con un microfono così. Vabbè, cioè, ne avevi due o tre, quando ho visto un po' metto l'altro. Allora, questo mi piace, lo sai perché Luca? Perché c'ha il tasto PTT morbido morbido. Il 60, bel microfono, tutto quanto, ma non mi piace il PTT, c'ha poca corsa e non è morbido. A me piace che lo stucchi appena, morbido. Vabbè, lo so, però la modulazione è meglio quello del 60.